term, and this is what the song's about. It's a thing called Strange Kind of Woman, this one. You just give us... Thank you. If you can just give us, a, you know, like a couple of seconds at the beginning of each thing to get tuned up. Tuned up. It pays up in the end. Buongiorno a tutti, da questo gelido lunedì invernale, salutiamo tutti gli ascoltatori di Radio Wombat. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. A quanto pare c'è quest'ondata di freddo siberiano che si è abbattuta sull'Italia, non ha risparmiato nemmeno noi. Qualcuno ironizza già che quando non sei te ad andare in Siberia, allora è la Siberia che viene da te. Fortunatamente la neve ha risparmiato noi a Firenze, ci ha proprio scansato, è caduta a Bologna, è caduta a Roma, noi evidentemente li stavamo antipatici. Sì, a Firenze oggi c'è un bellissimo sole, una giornata probabilmente la più fredda dell'anno. Vediamo cosa abbiamo la giornata di oggi. Innanzitutto abbiamo qualche notizia di tipo pubblicitario di Radio Wombat, la vogliamo dire? Sì, perché vi diamo una bellissima notizia per tutti voi ascoltatori, che come qualcuno forse già sa, Radio Wombat si può ascoltare ora anche in frequenze medie, in particolare sul 1359-1359 AM. Quindi anche quando siete in macchina, anche se non avete una connessione internet a disposizione, basta che vi sintonizziate su questa frequenza per poter stare sempre in ascolto dei nostri bravissimi radio speaker. Esatto, infatti ci sarà un evento di lancio il 3 e il 4, marzo tra il CSA Next Emerson e la polveriera Spazio Comune. Appunto il 3 marzo all'Emerson ci sarà alle ore 21 una proiezione di Boconas, penso si legga così. A seguire live CCC CNC NCN, rafting sonoro nelle correnti elettromagnetiche. Staremo a vedere cos'è, mi hanno detto che è qualcosa di molto interessante. E invece domenica 4 marzo alla polveriera, via Santa Pollonia in centro, dalle 15 workshop tecnici, dibattiti e racconti sulle radio pirate e le frequenze libere. Il programma completo lo trovate su Radio Wombat, anzi wombat.noblogs.org, scusate. Allora, partiamo invece con le notizie di questa settimana, settimana ricca di avvenimenti, però anche con uno sguardo alla settimana a venire. Infatti stiamo entrando, non so se ve ne sarete accorti, per sbaglio uscite ogni tanto per strada e vedete tutti quei brutti manifesti che hanno iniziato ad appestare le nostre vie, che questa domenica ci saranno le elezioni. Ta-da. Ok, partiamo con l'editoriale allora di InfoOut, dove parla di queste elezioni, però InfoOut a quanto pare ha trovato uno scoop incredibile, perché infatti dice che il 4 marzo le elezioni non ci saranno. Qualcuno è sconvolto? Dal tono della notizia è un po' buona e un po' cattiva. Leggiamo allora cosa scrivono i nostri amici di InfoOut. La parte buona è che gli italiani finalmente si libereranno da questa campagna elettorale che ha assunto le forme di un'orchite. I giornalisti in TV ormai sono in euforia da stress e i condivisori seriali hanno il gomito del tennista. Era una campagna elettorale spompata, pugili sonati che si appoggiano uno sull'altro per non andare giù, distanze chilometriche tra un lato e l'altro del tubo catodico o del PC, poi fascisti, rimborsi, 500 trilioni di clandestini che delinquono, la flat tax, la patrimoniale alla Zema, l'antifascismo responsabile, moderato, istituzionale, pelato, pancia in dentro e braccio teso, la violenza no. Ecco, adesso che le elezioni non ci saranno più, si sarà più tranquilli. Che poi si sapeva da tempo che non ci sarebbero state, che le elezioni erano una fake news, ma tanti ci sono cascati. Alcuni hanno pure pensato che potevano vincerle. Come facciamo a sapere che non le faranno? Beh, lo hanno detto tutti, il nano, il boy scout, la mummia, il baffo, persino il felpa si rassegnerebbe all'idea. Le chiamano larghe intese, grandi coalizioni, governo del presidente, governo di scopo. Che il nano e il boy scout puntassero a questo era chiaro fin dall'inizio, fin dalla legge elettorale. Il mummia dice che tanto di chi vince non gliene frega un benemerito, che poi taglia e cuce lui qualche vestito di governabilità per il paese e lo tira fuori. Il felpa se ne è uscito dicendo che per lui Draghi o Tajani andrebbero bene, ma comunque basta con i diktat europei. Usciamo dalla moneta unica? O forse no? Gli unici che ci credevano erano i pentastellati. Si erano impegnati a mettere il vestito buono, a raccomandarsi ai santi e a qualche investitore internazionale. Avevano raccontato che ormai sono diventati grandi, che sono maturati, che vaffanculo erano solo un peccato di gioventù, di quando si è adolescenti e ribelli, ma che ora sarebbero stati fedeli al quadro istituzionale e all'Europa. Al massimo avrebbero concesso qualche mancetta come gli altri, ma così fan tutti. E ovviamente sono rimasti al palo. Vanno in giro gridando che faranno un governo con chi ci sta. Ma chi è che ci sta? Un parlamento di amici immaginari. Intanto si nota sempre di meno la differenza dei Di Maio boys dal resto, senza che i consensi aumentano. Dopo che le elezioni non si faranno, si stracceranno le vesti, dicendo che sono arrivati i primi, che la democrazia qua e la democrazia là. Ma la democrazia cos'è? Questa democrazia è una fake news, proprio come le elezioni. È il meccanismo con cui dei Mite e dei Luca si spartiscono il buffet. È la rapina del capitalismo meschino italiano nei confronti dei lavoratori. È lo strumento del razzismo che alimenta la guerra tra poveri. Nel tanto è competizione tra elite, mafie e padroni. Lo si vede nel terrore fottuto che hanno appena qualcosa fuori dai margini delle istituzioni si fa sentire. Appena emerge un dato di realtà. Sanno quanto è fragile ormai questa loro democrazia, quanto è nuda l'ingiustizia che dovrebbe nascondere. Ma diciamocelo chiaro, se queste elezioni non ci saranno, se questa democrazia non esiste, perché qualcuno dovrebbe andare a votare? Mi sembra quindi una chiara indicazione di disertare le urne e di non andare a votare. E, d'altronde, se fosse bel tempo, anche noi potremmo augurarvi di andare tutti al mare, però così non è, quindi andate in montagna, magari domenica ci faranno un regalo e ci sarà il sole. Esatto, oppure andate alla polveriera per il lancio di Radio Bomba Time. Se vogliamo continuare su questa su questi contributi, riportiamo un pensiero da Napoli, dal CSA Tempo Rosso, che è uno spazio attivo nell'agrocaleno, quindi diciamo Interland casertano. È uno spazio, un contributo un po' in controtendenza, perché infatti quando uno pensa a Napoli pensa un po' a questo nuovo modello socialdemocratico, a De Magistris, a potere al popolo, alla democrazia che funziona, esatto, che vince. Questa città perfettamente funzionante, propositiva e ribelle che è Napoli. E cosa hanno da dirci invece dal Tempo Rosso? Al Tempo Rosso vogliono offrire un punto di vista differente. Infatti in questo comunicato riferiscono su quella che ritengono senza mezzi termini un'involuzione rispetto ai già scarsi risultati che faticosamente negli ultimi anni si erano prodotti collettivamente. Riportiamo, lo diciamo con chiarezza, non crediamo che la costruzione di liste elettorali di movimento possa essere la via d'uscita rispetto al tortore e all'immobilismo che attanaglia il fronte anticapitalista nazionale. Paradossalmente, nell'ultimo decennio, in concomitanza con la progressiva difficoltà dei movimenti di occupare lo spazio vuoto lasciato dallo sbriciolamento dei partiti tradizionali, continuando a porsi come forza di trasformazione rivoluzionaria, si è andato progressivamente accompagnando un percorso inverso, l'opzione istituzionale. Rimanendo alle realtà napoletane, si è infatti passati dalle prime esperienze nelle municipalità, sperimentate a cominciare dagli anni zero da alcune realtà di movimento, ad un demagogico controllo popolare delle ultime amministrative, fino al recente salto sulla scena delle elezioni politiche, con un cartello elettorale di un momento. In tal modo, a nostro avviso, dalla decantata anomalia napoletana, intesa come capacità di condizionare dall'esterno le scelte politiche cittadine, si rischia di cadere in un'altra anomalia, quella di una sussunzione progressiva, talvolta del tutto inaspettata, di fasce di movimento dentro il baraccone della politica istituzionale. L'arretramento dei settori di classe, che si presentano stratificati e frammentati, e dei movimenti, pone quest'ultimi nell'incapacità di legare il soddisfacimento dei bisogni sociali col conflitto. La debolezza strutturale porta, spesso, spezzoni di movimento a sostituirsi ai servizi, al welfare pubblico e misto, diventando ammortizzatori sociali e, di fatto, regolatori del conflitto, incapaci di cogliere la dialettica con i territori e con quei soggetti del proletariato metropolitano con cui sono in relazione. Pensiamo che la vera sfida sia quella di spingere l'acceleratore sul pedale della delegittimazione e del rifiuto della delega, di promuovere in maniera più larga ed efficace processi di auto-organizzazione, tenere aperta la possibilità concreta di un'alternativa radicale e dal basso, contro ed oltre la politica istituzionale, impedendo che nuovi giochi di potere, espressione di vecchie logiche di partito, tentino di perpetuare l'obiettivo di anestetizzare il conflitto. Prioritario per noi rimane l'attribuire centralità alla piazza, rifiutando la pacificazione dei movimenti e continuando a proporci come punto di riferimento per la ripresa della conflittualità sociale e di classe, che da livello territoriale sia capace di guardare oltre lo Stato nazionale con particolare attenzione. Siamo convinti che per essere all'altezza dei tempi sia indispensabile costruire una battaglia politica e culturale dal carattere ricompositivo. Scusate un attimo, Ok ragazzi, scusate, abbiamo avuto un problema di regia e non so a che punto ero rimasto, quindi ripartirò da un po' indietro sperando di non ripetermi. Allora, l'arretramento dei settori di classe, che si presentano stratificati e frammentati, e dei movimenti, pone quest'ultimi nella incapacità di legare il soddisfacimento dei bisogni sociali col conflitto. La debolezza strutturale porta, spesso, spezzoni di movimento a sostituirsi ai servizi, al welfare pubblico e misto, diventando ammortizzatori sociali e, di fatto, regolatori del conflitto, incapaci di cogliere la dialettica con i territori e con quei soggetti del proletariato metropolitano con cui sono in relazione. Pensiamo che la vera sfida sia quella di spingere l'acceleratore sul pedale della delegittimazione e del rifiuto della delega, di promuovere in maniera più larga ed efficace processi di auto-organizzazione, tenere aperta la possibilità concreta di un'alternativa radicale e dal basso, contro ed oltre la politica istituzionale, impedendo che nuovi giochi di potere, espressione di vecchie logiche di partito, tentino di perpetuare l'obiettivo di anestetizzare il conflitto. Prioritario per noi rimane l'attribuire centralità alla piazza, rifiutando la pacificazione dei movimenti e continuando a proporci come punto di riferimento per la ripresa della conflittualità sociale e di classe, che da livello territoriale sia capace di guardare oltre lo Stato nazionale, con particolare attenzione all'area del Mediterraneo. Siamo convinti che per essere all'altezza dei tempi sia indispensabile costruire una battaglia politica e culturale, dal carattere ricompositivo, per strappare un reddito incondizionato del lavoro per tutti, individuale e sufficiente a vivere, che ci liberi dal ricatto del lavoro salariato riducendone drasticamente l'orario e che sia capace di fare spazio ad altre forme di cooperazione, per ridisegnare un altro modello di sviluppo. Lo ripetiamo, in una fase in cui la disillusione verso i partiti e la politica istituzionale in generale è sempre più diffusa, il tentativo di ricondurre il malcontento di conflitti nelle sedi di partito, rilegittimando le istituzioni, ci pare antitetico alle necessità di fase. Per raccogliere la sfida occorre fare rete con i comitati territoriali e di quartiere, con le soggettività di movimento, con gli spazi occupati, con quel sindacalismo ancora indipendente, con tutte quelle realtà che ancora credono nella politica nella sua dimensione vera, antitetica alle istituzioni e lontana dalla rappresentanza. Per continuare ad alimentare le nostre ambizioni occorre rimettere in piedi processi di ricomposizione di classe, avendo quali interlocutori privilegiati disoccupati, precari di ogni settore, migranti, studenti, lavoratori, e tutti quei soggetti che quotidianamente vivono sulla propria pelle le contraddizioni generate dalla barbarie di questo sistema sociale. Il nostro programma, in questa fase di stagnazione, ha un solo punto al quale lavorare: la destabilizzazione della pacificazione sociale in ogni ambito possibile e la costruzione di nuovi organismi decisionari. Chiaro che questa ingovernabilità si declina nei luoghi del conflitto e nei territori dell'attacco agli strati sociali subalterni. Chiaro che questa indisponibilità vada testata sui terreni delle lotte a difesa del territorio, del reddito e della casa per tutti e tutte, più in generale dei bisogni negati. Pensiamo che sia necessario mettere in connessione quanti non amano vivere in questo gorgo, quanti non vedono all'orizzonte punti di riferimento da alimentare o istituzioni da attraversare, quanti vivono questa realtà con disagio, quella maggioranza del paese che non vota ma resta passivamente a casa. A tutti costoro noi diciamo che è giunto il momento di smetterla di lamentarsi e di mettere in cammino insieme storie ed esperienze libere, ingovernabili e indisponibili a farsi risucchiare dal sistema che dobbiamo abbattere. Certo, la sfida davanti è difficile e impegnativa, ma bisogna ripartire da qui, dalla materialità delle contraddizioni, conflitti prodotti dalle politiche dei governi, che si sono alternati negli ultimi anni, contro i rigurgiti fascisti e razzisti che attraversano le nostre città, contro il sessismo e il patriarcato, contro le politiche di sfruttamento e di messa a profitto delle nostre vite, dei nostri corpi e dei nostri territori. Per tutto ciò lanciamo un appello a quanti ancora oggi ritengono che non esistano scorciatoie e indolori per uscire dallo stallo in cui le politiche economiche, sociali e di polizia ci hanno ricacciato negli ultimi anni, ma che solo attraverso la caparbia costruzione di contrapposizione e costruzione autonoma possiamo intendere e ipotizzare percorsi diversi, nuovi e di riscatto. Firmato CSOA Officina 99, CSOA Tempo Rosso, L.O.S.C.A. E quindi una presa di posizione abbastanza netta verso le scorciatoie elettorali che propongono liste come Potere al Popolo, di cui non ci sembra che venga messa in questione la buona fede, ma piuttosto venga questionata la tattica politica. Infatti, se posso fornire una considerazione personale, se si va a leggere il programma di Potere al Popolo, sembra un programma molto figo, cioè chi è che non si rivendicherebbe un programma del genere? Il problema è che è un programma elettorale, non è un programma di lotta, e per cui veramente rischia di rimanere sulla carta una volta passate queste elezioni. Sarà anche ai compagni di Potere al Popolo che dicano loro stessi di essersi voluti candidare a queste elezioni non perché credano nel fatto che attraverso le elezioni si possa portare un cambiamento in Italia, ma semplicemente per dare un appoggio in più alle lotte. Sarà loro dimostrare che queste parole sono sincere e non interessate a qualche secondo fine, e dopo questo passaggio elettorale vedere se veramente riusciranno a trasformare quel programma elettorale in un programma di lotta. Probabilmente questa è la vera sfida, infatti, che tutti ci aspettiamo. Passiamo a questioni più ad aggiornamenti di quello avvenuto in questa settimana. Abbiamo sicuramente la tematica dell'antifascismo. Da cosa vogliamo cominciare? Allora, io visto che non starei a dare, cioè non vorrei stare a fare una classifica di quale momento è stato più importante, quale è stato meno importante, perché i momenti di antifascismo declinati ovviamente nei contesti territoriali sono tutti molto importanti, andrei in ordine geografico, sì, partendo dal nord-est, quindi da quello che è successo a Brescia. Ok, a Brescia cosa? A Brescia c'è stato, probabilmente molti di voi già lo sapranno, un incendio per mano fascista quasi sicuramente al CSA Magazzino 47. Sbaglio qualcosa? Sì, no, non sbaglio niente. Purtroppo non ho la notizia sotto mano in questo momento. E quindi abbiamo questa notizia qua, poi in ordine andiamo con... vogliamo leggere sì, qualche articolo? Sì, leggiamo il comunicato dei compagni del magazzino. Questa notte i topi di fogna si sono introdotti nel centro sociale e dopo aver forzato una finestra hanno appiccato un incendio all'interno del locale che ospita la libreria e l'enoteca. La finestra forzata... Gli evidenti segni di effrazione e un intenso odore di benzina non lasciano dubbi sulla natura dolosa, come immediatamente notato dagli stessi vigili del fuoco. Quindi grave attentato di matrice fascista, che poteva finire anche molto peggio di come è finito. Fortunatamente un compagno era presente all'interno del centro sociale, è riuscito tempestivamente a dare l'allarme e purtroppo cioè l'unico danno che si è causato è stato a danno del nemico giurato dei fascisti, cioè i libri. Sono bruciati un sacco di libri e i danni al centro sociale sono stati fortunatamente contenuti. E i compagni hanno reagito subito chiamando per il giorno dopo, quindi per sabato, una manifestazione che è stata molto numerosa e partecipata, e hanno lanciato una campagna di donazioni sia in termini economici sia in termini in natura, quindi se proprio regalare libri per ricostruire il centro di documentazione del magazzino. Molto bene, andiamo quindi su, ci spostiamo verso ovest. Ci spostiamo a Milano. Milano, dove c'è stato anche qui un momento di antifascismo, visto che era previsto sabato un corteo contro il comizio di Casa Pound e contemporaneamente anche contro il comizio di Salvini, visto che queste sia Lega che Casa Pound si ritrovano molto vicini in queste scelte elettorali e hanno entrambi chiuso la campagna elettorale a Milano. La polizia ha provato a respingere gli antifascisti con una carica e lanci di lacrimogeni. L'esplosione di alcune bombe carta ha fermato gli agenti. Più di un migliaio di antifascisti è riuscita poi a muoversi in corteo verso piazza 25 aprile. Si conferma ancora la linea del Viminale tesa a garantire piena agilità alle formazioni fasciste, ricomprese nel gioco democratico. Servite e protette da polizia e carabinieri, nonostante un pezzo di paese ribadiscono indisponibilità partigiana a concedere qualsiasi spazio ai fascisti di oggi. D'altro, al comizio di Salvini, in piazza Duomo, è comparsa una bandiera dei neonazi americani, cioè la bandiera di un paese immaginario che i neonazi si rivendicano apertamente. E i leghisti hanno detto ovviamente che la scelta è una scelta ironica, però mi sembra che tutte queste scelte ironiche, diciamo, sia pure un po' un arrampicarsi sugli spezzi, come anche la notizia di settimana scorsa che la Cassazione avrebbe deciso che il saluto romano non costituisce reato se fatto in maniera esclusivamente commemorativa. L'esclusivamente commemorativo, ovviamente, cioè, dimostrarlo è quasi impossibile, quindi questo dà un appiglio a tutti gli avvocati dei fascisti di non essere perseguiti legalmente per il loro fascismo. Ora, non che noi auguriamo in nessun modo che sia la giustizia a risolvere i problemi che devono risolvere i compagni, però questo, semmai ci fosse bisogno di dimostrarlo, dimostra ancora una vicinanza totale tra gli apparati dello Stato e questi partitini delle galassie neofasciste. Una risposta, infatti, con la stessa simpatia è stata data a questa questione, che anche appendere i fascisti potrebbe essere commemorativo, e quindi è tutto da vedere quello che si considera commemorativo o quello che viene considerato penale. Questa settimana infatti abbiamo visto una marea di commemorazioni, probabilmente anche a livello mediatico, di tutta una costruzione di un clima da anni 70, tutto appunto rialimentato dai media che cominciano a parlare della questione del fascismo in Italia esclusivamente a fini elettorali, probabilmente. E andiamo adesso su che città? Continuiamo Torino, il nostro spostamento geografico. Andiamo a Torino, andiamo ancora verso est. Centinaia pure di a Torino ci sono stati duri scontri, anche stavolta contro un comizio di Casa Pound. Andiamo un po' indietro nel tempo, perché questi fatti si sono svolti infatti nella serata di giovedì del 22 febbraio, esattamente. Sì. Il ministro degli interni Marco Minniti ha ovviamente parlato di fatti gravissimi e della necessità di abbassare i toni. I fatti gravissimi di cui parla Minniti in realtà è semplicemente un antifascismo genuino e non delegato. Riportiamo un pezzo del comunicato del network antagonista torinese. A Torino l'altra sera è successo ciò che è normale, e cioè centinaia di persone, di abitanti della città, si sono opposte alla sfilata elettorale di un gruppo fascista, facendo ciò che le istituzioni hanno scelto da tempo di non fare. E l'hanno fatto con ogni mezzo a loro disposizione, perché l'unico antifascismo possibile è quello che impedisce a queste tristi figure di spargere odio in giro per il paese, che li costringe a rimanere rinchiusi nei loro covi, ad avere paura. Quella paura che loro cercano di distillare per dividere gli oppressi, per opprimere e soverchiare. Chi ha commentato sui giornali dei gruppi editoriali fatti di Torino è riuscito a paragonare gli spari del terrorista di Macerata con qualche bomba carta che è esplosa al corteo. Ha parlato di tentato omicidio, di tentata strage con nessun senso della realtà. Accuse che proprio in queste ore si stanno rivelando infondate. Ciò che vorremmo fare è sostanziare una teoria degli opposti estremismi. Della guerra tra bande, del fascismo degli antifascisti, vittimizzando ancora una volta i nipotini del duce. Nessun opposto estremismo. Impedire ai fascisti agibilità politica dovrebbe essere il dovere di chiunque non voglia una società opprimente, sessista e razzista, compreso chiunque difenda la tanto sbandierata libertà di parola, in questo paese garantita a fasce alterne. Giovedì in quel corteo verranno molti lavoratori, studenti, anche famiglie che hanno compreso bene questo dovere e che hanno, ognuno con i propri mezzi e con le proprie volontà, dimostrato che la città non tollera questa feccia. Ok. Andiamo adesso su, diciamo scendendo, possiamo arrivare fino a Firenze per una questione che non è strettamente antifascista, ma che riporto da InfoAuto, un articolo breve rispetto... Facciamo dopo? Ci dicono... Sì, facciamo dopo, allora. Allora, facciamo un breve stacco musicale. Spostiamoci verso il mare, magari. Andiamo, leggiamo sta notizia e poi andiamo... Magari mettiamo un po' di musica, che le nostre voci alla lunga... Qual è la notizia un po' di noiose, mare, che comunque Salvini è stato contestato pure a Pisa. Esatto. Riportiamo pure qui dal comunicato dei pisani. C'è una campagna elettorale che sembra una via crucis, quella di Matteo Salvini. Sventola come un bambino il suo programma sovranista, mentre l'alleato Silvio prepara la grande coalizione col PD. E ovunque va viene accolto dalle contestazioni, che gli ricordano che lo stragista di Macerata era un suo candidato al consiglio comunale. E infatti... molto, molto numerosa la contestazione per una città come Pisa, che non ha non è forte a livello demografico. Comunque contestazione che si rivendica anche la contestazione a Renzi, quindi dice non contestiamo Salvini perché appoggiamo la parte istituzionale dell'antifascismo, ma prendono le distanze da tutti i partiti istituzionali, che altro non sono che diverse facce della stessa guerra tra poveri. Durante questo corteo sono state fermate 6 persone, a cui mandiamo la nostra solidarietà. Anche a Pisa, come è successo in altre città d'Italia, è stato dimostrato che Salvini non è il benvenuto, e che le parole di odio poi bisogna renderne conto nelle piazze. Esatto, piazze che hanno dimostrato insomma una grossa compattezza, una grossa determinazione in queste ultime settimane. Fortunatamente siamo tutti contenti di quello che sta avvenendo, di appunto questa determinazione nel contrastare il fascismo, nel contrastare questo sistema di informazione che sta completamente spostando l'opinione pubblica e politica a destra in questo paese, ma appunto è stata necessaria, e per fortuna si sta cercando di riaffermare un'identità popolare antifascista in varie città d'Italia, in vari momenti. Quindi continuiamo con questa rassegna rispetto a appunto le giornate d'antifascismo in Italia. Abbiamo adesso adesso pronto Palermo, a volendo Palermo, ok, dove riportiamo brevemente i fatti. Ok, esatto. Rispetto a Palermo, per aggiornamento, perché questa notizia della scarcerazione finalmente dei due compagni che sono stati arrestati la scorsa settimana, quindi ritorniamo un attimo sui fatti. Era avvenuto, come insomma abbiamo probabilmente molti hanno visto, un'azione dimostrativa, un pestaggio con tanto di scocciatura di mani e piedi di un dirigente di Forza Nuova Palermo, appunto il dirigente provinciale, e il giorno dopo erano stati portati in questura alcuni compagni dello studentato Malarazza e due erano stati tratti in arresto con l'accusa gravissima di tentato omicidio. E invece adesso vado appunto da InfoOut, notizia di due giorni fa: cade il castello di Digos e procura, scarcerati due antifascisti palermitani, 5.000 in piazza. In meno di una settimana cade la montatura di Digos e procura di Palermo, che aveva portato all'arresto di due militanti antifascisti accusati di tentato omicidio nei confronti di un fascista picchiatore. Decade l'accusa, Carlo e Gianmarco saranno liberi nel tardo pomeriggio. Il GIP ha valutato le prove portate dal pubblico ministero e dalla questura di Palermo insufficienti per trattenere in carcere due giovani antifascisti. Insufficienti le prove documentali che non ricondurrebbero Carlo e Gianmarco al video circolato in rete. Insufficienti le motivazioni evidentemente piegate alla crociata politica tesa a garantire l'agibilità politica e tutela legale ai fascisti, trasformati da un giorno all'altro da leoni a vittime da coccolare. Massimiliano Ursino resta un uomo spregevole. Anche dopo la solidarietà bipartisan che l'ha investito. E proprio per questo è incappato in qualcuno che per strada non digeriva le sue strafottenze, le ronde sui bus, i pestaggi agli immigrati. Un incidente che gli è costato in fondo solo qualche giorno di riposo, e non 20 giorni di prognosi come falsamente dichiarato dalla polizia di Palermo in base a un referto medico fantasma mai esistito. L'accusa nei confronti di Carlo e Giacomo è stata derubricata ad aggressione con lesioni e saranno scarcerati nel divieto di dimora nella provincia di Palermo. Questo pomeriggio a Palermo intanto si attende il corteo antifascista contro il comizio di Fiore, leader di Forza Nuova, al quale è attesa una larga partecipazione e che richiederà con forza anche di riavere in città Carlo e Gianmarco. E infatti poi appunto c'è stato il corteo, un corteo veramente molto numeroso, appunto come da titolo parlava di 5.000 persone in piazza, un corteo compatto, il cui striscione di testa era molto semplice e chiaro, diceva oggi come ieri antifascismo militante. Corteo si è messo in continuità anche con appunto questo episodio di pratica antifascista diretta. Ci sono appunto delle immagini della testa del corteo che sfila con questo rotolo di scotch in mano, un po' a mo' di rivendicazione, un po' a mo' di ironizzazione di quella appunto che è stata anche una grossa montatura mediatica dell'episodio. E quindi massima solidarietà ai compagni repressi a Palermo, come ai compagni ripresi per i fatti di Piacenza che si trovano tuttora in carcere. E, sì. Andiamo adesso con uno stacco musicale un po' più completo. Vogliamo dare un'ultima notizia al volo? No, solo brevi considerazioni su quello che è successo a Palermo. E come ricordava un portavoce del Centro Sociale Anomalia, è anche per questi fatti di antifascismo che possono sembrare duri ma sono decisi e necessari, se a Palermo, come dice lui, un omosessuale o un immigrato possono camminare tranquillamente senza aver paura per le strade del centro. Al fascista picchiato Ursino il medico ha consigliato di stare 5 giorni a riposo, quindi dai 20 giorni di prognosi si è arrivati ai 5 giorni di riposo, e un po' poco per un tentato omicidio, ma si sa che ai fascisti piace tanto fare i grandi a parole, ma appena hanno una telecamera che li inquadra si trasportano subito nel ruolo delle vittime. Andiamo con un po' di musica. Esatto, sto facendo un casino assurdo. Molto bene. Allora, mettiamo un attacco musicale, ci prendiamo un caffè, consigliamo a tutti di prendersi un caffè, ci ribecchiamo tra 5 minuti. You're something sweet. Ma bentornati con la nostra rassegna stampa di Wombat. Di Wombat. E ripartiamo con l'importante manifestazione che c'è stata sabato a Roma, in cui il sindacato intercategoriale COBAS ha portato in piazza 10.000 lavoratori provenienti da tutta Italia e ha messo un importante tassello per costruire un fronte unito di un sindacato che si definisce apertamente e con la pratica anticapitalista. E conflittuale. E conflittuale, perché è, diciamo, quest'unione di cose che raramente si trova, almeno negli ultimi tempi, in Italia. E riportiamo un pezzo dell'articolo. Oltre 60 i bus giunti dal nord al sud della penisola con gli operai protagonisti delle lotte della logistica e di tante altre vertenze con cui sfidano a testa alta il sistema di precarizzazione e impoverimento voluto da padroni e governanti nel paese. Insieme a loro tanti e tante militanti dei centri sociali, lotta per la casa, studenti antifascisti. Il corteo ha percorso il centro della capitale blindato ad hoc nella giornata in cui si svolgevano 4 manifestazioni in contemporanea nella città, compresa quella di ripiego lanciata da Renzi e tutta la burocrazia e il gota dell'associazionismo sempre più in declino, legate al PD e alla CGIL. In questo contesto i 10.000 hanno portato le ragioni della lotta di classe quotidiana e intransigente, che fronteggia tutti i giorni il razzismo istituzionale e i regurgiti fascisti nei territori di appartenenza. L'alta componente migrante di queste lotte porta con sé il rifiuto totale delle politiche segregatorie e colonialiste, che da una parte condannano a morte milioni di persone al di là dei confini europei e dall'altra iniziano l'odio nazionalista e primatista nei confronti di chi giunge in Italia con l'utilizzo della gran cassa mediatica. La connessione tra lotte sul reddito per la riappropriazione e la redistribuzione delle risorse è uno degli obiettivi del movimento operaio della logistica, come rimarcato anche dall'intervento delle maestre in lotta contro la valanga di licenziamenti in vista a firma Fedeli, quelli del Movimento per il diritto all'abitare e degli studenti universitari. Il corteo partito dall'Esquilino si è concluso in Piazza Venezia, dove il coordinatore nazionale del SICOBA, Saldo Milani, ha ribadito che gli operai organizzati nel sindacato conflittuale di base e le altre componenti del movimento non arretreranno di fronte agli sfruttatori, volendosi conquistare, oltre al pane, anche le rose. Una tappa importante dunque, conferma la vastità del mondo operaio organizzato, soprattutto a partire dalla logistica, e che garantisce un pieno di energia per andare ben oltre la scadenza elettorale, confermando ancora una volta che la linea del colore può essere rovesciata in dignità e riscatto nei processi di conflitto. Una piazza, quella romana di ieri, che si imprime nella costellazione di mobilitazione antifascista di questo significativo febbraio di lotte e scontro, che ha richiesto a gran voce la liberazione di Giorgio, Lorenzo e Mustafa arrestati a Piacenza. Importante volano e piattaforma di lancio per le prossime stagioni di conflitto sociale. Molto bene. Infatti buone sensazioni anche per noi che siamo stati a Roma sabato. È stato veramente un bel corteo e sicuramente fa molto piacere vedere una così alta consapevolezza del loro ruolo da parte di quella componente migrante che molto spesso vorrebbero essere far passati semplicemente per vittime di questo sistema, quando in realtà hanno saputo scrollarsi di dosso anche questo vittimismo e rispondere con la lotta allo sfruttamento dei padroni. Molto bene. Andiamo adesso su a Firenze. Ulteriori notizie a Firenze. Quindi, ok, quindi con appunto la notizia che stavo dando prima rispetto, siamo sempre su InfoOut, Firenze colpiti PD e McDonald's, alternanza e sfruttamento. Leggo l'articolo, poi andiamo a commentare magari. Sciopero dell'alternanza. Rilanciando lo sciopero generale chiamato dal SICOBAS, quindi appunto collegato allo sciopero che c'è stato il 23 febbraio, il giorno prima del corteo a Roma di cui parlavamo un minuto fa, gli studenti di alternanza Horror Story hanno deciso di caratterizzare la giornata di ieri esprimendo chiaramente cosa pensano dell'alternanza scuola-lavoro. Un insieme di progetti fuffa, che sottraggono tempo allo studio e che non sono quasi mai veramente didattici, a cui gli alunni, dal triennio in poi, sono costretti. Ieri un corteo ha attraversato Firenze, da San Frediano a via Cavour, identificando i responsabili della situazione che gli studenti di tutte le scuole si trovano a dover affrontare. Vernice rossa. È stata sanzionata una sede del Partito Democratico che, anche se negli spot elettorali adesso si dimostra come smart e amico dei giovani, non può nascondere sotto il tappeto la propria responsabilità nell'aver reso sempre più precaria e incerta la vita di giovani, studenti e lavoratori. E il McDonald's di via Cavour, identificato come simbolo di chi sulla pelle degli studenti ci guadagna proponendosi alle scuole e ottenendo di vedersi riconosciuto come formativo, mentre gli studenti mettere gli studenti a friggere patatine e lavare cessi, guadagnandoci pure, magari anche la possibilità di lasciare a casa una bella fetta di quei ragazzi poco più grandi, forse studenti anche loro, che con l'ennesimo lavoretto ci pagano l'affitto o le tasse universitarie. Alternanza Horror Story. Questo è il nome della campagna lanciata dagli studenti fiorentini per far emergere la realtà quotidiana di questi lavori gratuiti e deregolamentati. Allo scopo di raccogliere testimonianze di chi vive lo sfruttamento sulla propria pelle, è stata aperta una pagina Facebook. Qui c'è appunto il link che potete trovare. E, appunto, breve notizia, ma appunto molto chiara. Un chiaro collegamento con sia con il Siccobas e quindi con quella pratica radicale e molto diretta di affrontare appunto le questioni del lavoro senza continuare a tergiversare su una concertazione che è ormai, io penso sia davvero chiaro che non esiste più. E, qui abbiamo l'immagine della vetrina sanzionata, appunto c'è vernice rossa e dei volantini attaccati sopra che appunto dicono molto chiaramente: scegli lo sfruttamento, vota PD. Scimmiottando anche un po' l'orribile campagna elettorale che probabilmente il perdente PD ha messo in campo. E passiamo ora alla cronaca. Due fatti di cronaca molto significativi, la cronaca non significativa ci interessa poco. Uno accaduto ancora a Palermo, dove Vittorio Brummotti, non so se avete presente questo brutto figura, un po' questo paladino della legalità e dello scandalismo, che sta ricevendo pizze in faccia ovunque osa presentarsi. A Palermo, infatti, al quartiere Zen, non so se conoscete questo fantastico quartiere di Palermo, è diciamo il no plus ultra delle periferie, cioè è l'archetipo della periferia. Andare per credere è sicuramente un problema, cioè un quartiere che ha un sacco di problemi. Ma ovviamente i paladini della legalità preferiscono concentrarsi su quelli che spostano consensi, in questo caso lo spaccio di droga. Brummotti infatti si è presentato allo Zen per documentare come viene gestito lo spaccio di stupefacenti, ma è stato aggredito da un folto numero di abitanti del quartiere, che ovviamente non pensa che sia il giornalismo scandalistico o la militarizzazione di un quartiere che può risolvere i suoi problemi. L'auto di Striscia la Notizia è stata perforata da un colpo di arma da fuoco, un calibro 12. Brummotti e i suoi collaboratori sono riusciti a mettersi in salvo solo grazie all'intervento della polizia e dei carabinieri. Peccato, aggiungiamo noi. Brummotti a Palermo da un paio di giorni. Nei giorni scorsi aveva condotto la sua inchiesta con domande nel quartiere, ma senza esporsi. Ieri l'inviato di Striscia aveva in programma il suo numero tradizionale, andare in giro con un megafono per invitare gli spacciatori a smettere. Prima però ha iniziato a chiedere ai residenti se conoscesse o meno alcuni pusher. Il numero del megafono non è mai cominciato. L'inviato di Striscia è stato aggredito subito dopo essere arrivato allo Zen, davanti alla chiesa di San Filippo Neri, dove stava cercando di ricostruire il giro dello spaccio. La truppa è stata prima cercata da una ventina di persone, poi è partita una fitta sassaiola, seguita da un grosso pezzo di cemento che è stato tirato sul tetto della macchina da una delle abitazioni. Infine il colpo, sparato secondo i primi accertamenti con un fucile a pallettone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Lorenzo e la polizia. Quindi, un bel caso di contropotere territoriale dove vengono cacciati dai quartieri quegli individui che sui quartieri sono interessati solamente a specularci e poi magari vivono nelle loro belle case, nei quartieri centrali delle città del nord, facendo soldi sulla vita di chi invece è costretto a vivere in quartieri che oggettivamente sono disagiati, oggettivamente sono dei bei posti, oggettivamente non è bello viverci, ma sicuramente andando a voler curare gli effetti senza farsi nemmeno due domande riguardo alle cause non è proprio il metodo giusto per risolvere questi problemi, e gli abitanti lo hanno capito molto bene. Ok, molto bene. Un'altra nota di colore, proprio in questo caso colore, perché infatti a Milano c'è stata una offensiva di writer nei depositi ATM. Ci sono stati 4 attacchi in sole 36 ore, riporta la cronaca del Corriere. Sarebbe quasi una vendetta rispetto a un regime repressivo che su Milano sta fondando un'avanguardia appunto della repressione al writing. Andiamo quindi col Corriere. Una sequenza come non si vedeva da anni, colpite tutte le linee della metropolitana, 3 assalti riusciti e uno sventato al QT8, grazie alla security ATM che ha avvisato in galleria 4 giovani. Giubbotti, cappucci, zaini, borse cariche di bombolette, quindi è proprio l'armamentario tipico del writer. Sono 4 figure che corrono lungo la massicciata dei binari, alla luce dei lampioni, accanto a un treno, al confine del vasto spazio dei binari nel deposito ATM di Famagosta. Gli uomini della sicurezza dell'azienda li vedono scappare dai monitor delle telecamere di sicurezza. Poco dopo arrivano nel deposito per le verifiche. 4 vaste scritte colorate coprono le fiancate 3 interi vagoni di un treno della linea M2. Inizia così, intorno alle 19.30 di venerdì, un fine settimana di attacchi dei writer alla metropolitana. 4 blitz in poco più di 24 ore, 3 treni imbrattati, colpite tutte le linee, 3 assalti riusciti e l'ultimo sventato. Una sequenza di intrusioni che sulla rete dei trasporti milanesi non si vedeva da anni. Quindi, bene, cioè, ci fa piacere che anche il movimento dei writer sia iniziando a rialzare la testa e a portare la loro arte in uno dei posti dove meglio figura, cioè i vagoni delle metropolitane. Bene, adesso che andiamo con uno stacco musicale, prima volevo lasciarvi con una veloce segnalazione di un articolo di d'Oltreoceano, su un articolo che si trova su quieora.inc con la K, che è una rivista online di approfondimenti. L'articolo titola "Contro la morte nera per un antifascismo rivoluzionario". Questo è il numero 2 di questo approfondimento, e uno sguardo sul Nord America, un'intervista ad alcuni compagni del Nord America, ed è consiglio la lettura, un approfondimento molto interessante su quello che è il movimento fascista in America oggi e quella anche che è appunto la sua declinazione anche a livello di governo, cioè di strutture, appunto la polizia, cioè come opera e tutto quanto. E niente, consiglio la lettura di questo articolo. La pagina è quieora.inc, pagina 1624 per il link. E ci sentiamo fra pochino. Vi lasciamo con qualcosa sempre d'Oltreoceano. eccoci tornati a Radio Wombat, alla rassegna stampa. E una breve, appunto, notizia rispetto alla repressione dei social di Facebook. È stato chiuso il profilo di Davide Grasso, personalità che si fa sentire sul mondo di Facebook, appunto per le notizie e gli aggiornamenti sul Kurdistan, dopo aver fatto appunto diversi viaggi. È stato un combattente delle forze democratiche siriane, e c'è un comunicato che gira online che insomma parla un po' di questa vicenda, il fatto che gli è stato chiuso l'account e di come la funzione di questo account chiuso sia appunto relativa a una repressione dell'informazione, perché il suo è uno dei pochi canali che parlano e danno testimonianze dirette di quello che sta succedendo in questo momento in Rojava, non solo, ma anche in tutta quella zona del Kurdistan. E sempre rimanendo sul mondo di Facebook, diamo notizia, per chi volesse appunto anche riaggiungerli, che era stata chiusa nell'ultima settimana anche la pagina Facebook del CSA Dordoni di Cremona, che è stata ricreata, e quindi insomma invitiamo tutti gli amici e compagni ad aggiungere questa pagina Facebook, che appunto è stata per qualche giorno nascosta da questo mondo etereo e sociale di Facebook. Allora, andiamo con cosa andiamo? Con notizie di musica. No, notizie di, affrontiamo un po' questo, no, se vogliamo, il lato internazionalista, okay. Direi, visto che comunque è ancora in corso l'aggressione turca ad Afrin, ed è molto difficile reperire notizie perché ovviamente i media mainstream non parlano assolutamente di questo fatto, e dal cantone è comunque difficile comunicare con l'esterno, poiché non sempre è disponibile connessioni internet, visto che la Turchia prova in tutti i modi a limitare le comunicazioni dall'interno del cantone verso l'esterno. Tuttavia, sul posto sono presenti alcuni corrispondenti italiani che riescono comunque a documentare quello che sta succedendo. Ok, leggiamo una parte di un articolo, vogliamo... Leggo? Io andrei un po' sia... Ok, siamo sempre su InfoOut, che sta facendo un lavoro molto concreto rispetto a Rojava, e quindi abbiamo questo articolo che si chiama Retroscena e sviluppi attorno alla guerra ad Afrin. Ok, vado dall'inizio molto rapidamente. La Turchia si appoggia all'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite sulla sicurezza dei confini e il diritto alla legittima difesa per quanto riguarda gli attacchi contro Afrin, che sono cominciati il 21 gennaio 2018. Tuttavia, questa non è la verità. Negli ultimi anni non ci sono informazioni pubbliche riguardanti un attacco dalla città di Afrin alla Turchia, e la Turchia non lo può provare. Dopo che l'occupazione di Afrin è cominciata, numerosi razzi hanno bersagliato le città frontaliere come Kilis o Reyhanlil, scusate la pronuncia sicuramente sbagliata, in Turchia, ma ancora non è stato rivelato chi abbia lanciato questi razzi. L'opinione più diffusa, anche in Turchia, è che quei razzi fossero organizzati dal MIT, agenzia di intelligence turca, per giustificare l'occupazione. Quindi la Turchia non ha iniziato l'attacco su Afrin per difendersi. Il regime turco sta portando avanti quegli attacchi contro gli sforzi del popolo curdo in Siria per stabilire un sistema moderno in un quadro democratico insieme a differenti popoli. La Turchia vuole bloccare la formazione di una struttura federativa che include i curdi e vuole far dominare la regione ai jihadisti per controllare l'area de facto. La Turchia non ha ancora abbandonato l'ideale neo-ottomano e l'idea di governare il Medio Oriente attraverso un'ideologia comune a strutture come Fratelli Musulmani. Per questa ragione ambisce a espandere la sua area, aggiungendo Afrin a città come Jarablus, Azaz o Bab, che jihadisti controllati dalla Turchia dominano da tempo. Ha dichiarato che vuole puntare a Manbik dopo Afrin, far muovere le SDF a est dell'Eufrate e dopo colpire le SDF per bloccare completamente una struttura autonoma in cui i curdi prenderebbero parte. L'aspetto più importante che rende la Turchia così aggressiva e ostile è il fatto che non è stata in grado di risolvere la questione curda al suo interno. La Turchia ha la paranoia che il popolo curdo in Turchia sia influenzato e si muova di conseguenza nel momento in cui in Siria c'è una struttura in cui i curdi partecipano attivamente. Perciò, da lungo tempo, sta cercando di distruggere le attività che i curdi stanno sviluppando in Siria. Non essendo riuscita a ottenere nessun risultato da questo, ha cercato un'opportunità e spazio per il suo attacco. La Turchia ha tratto molto beneficio dalla rivalità tra USA e Russia in Siria, mentre realizzava questa occupazione. In Siria gli USA hanno rivendicato l'ovest dell'Eufrate e la Russia l'est, come la loro area di dominio, e l'hanno fatto accettare all'altro. Però la Turchia doveva fare un accordo con la Russia su Afrin, nell'ovest, e l'ha fatto. Sembra che la Turchia abbia fatto qualche compromesso e abbiano ottenuto il permesso dalla Russia per usare lo spazio aereo siriano e condurre l'attacco di terra. È evidente che la Russia volesse allontanare la Turchia dagli USA e attraverso questo accordo mettere anche la sua appartenenza alla NATO in dubbio. Un'altra possibilità significativa per la quale il regime di Assad e la Russia abbiano dato l'assenso di attaccare Afrin e per sconfiggere i jihadisti di Idlib, controllata dalla Turchia. Attraverso questo accordo e trasferire Idlib sotto il controllo della zona d'Assad. Perché al momento il problema più evidente per il regime siriano è che Idlib è controllata dai jihadisti. La Turchia voleva portare Afrin fuori dal controllo dell'SDF come prima cosa. Quindi è possibile che abbiano concordato per Afrin in cambio di Idlib. Tuttavia anche la Russia e il regime siriano non vogliono che l'area di Afrin sia controllata dalla Turchia e dalle forze jihadiste del FSA sul lungo termine, perché queste forze sono quelle che hanno combattuto contro il regime di Assad e sono riconosciute come terroriste fin dall'inizio. E come secondo passo del piano mandare via la Turchia dalla Siria sotto la legislazione dell'ONU. Sembra anche che Russia e il regime pensino di prendere Afrin, sia integrando sia sconfiggendo l'FSA nell'area. Perciò, come prima cosa, Russia e il regime siriano volevano seguire la strategia di prendere due piccioni con una fava. Riguardo alla Turchia, è ovvio che sia aperta ogni tipo di progetto o relazione per impedire ai curdi di avere uno status in Siria. Sembra che l'Iran sia lo stato della regione più infastidito dalle relazioni che si stanno sviluppando tra Turchia, Russia e il regime siriano. Non solo l'Iran è in competizione con la Turchia nella regione, ma anche in competizione per l'influenza all'interno della Siria. L'Iran non vuole che la Turchia sia troppo influente in Siria. Tutti i gruppi sostenuti dalla Turchia sono posizionati contro la corrente sciiti iraniana. Sciita, penso sia. Perciò sembra che l'Iran proponga progetti e suggerimenti che incoraggiano il regime siriano a essere più attivo contro la Turchia. È ovvio che l'Iran mostrerà qualche sforzo per distruggere i piani e ridurre le attività della Turchia senza infastidire la Russia. Nel corso del tempo la coalizione occidentale non ha potuto avere una presenza attiva contro l'ISIS. La più importante ragione per questo è che gli USA e la Russia hanno convenuto che le loro aree di influenza sono ovest dell'Eufrate e est dell'Eufrate e non intervengono nella regione dell'altro. A parte questo, l'ipotesi che abbiano diviso la regione è stata provata ancora una volta. Sembra che gli USA non intervengano e si muovano per Afrin perché è ovest dell'Eufrate, ossia nella regione sotto il controllo della Russia. Non solo questo, sembra anche che gli USA abbiano scelto la via soft per avvicinare la Turchia contro i piani che la Russia sta attuando contro gli USA e la NATO e per riconquistare la Turchia nel campo USA, questa volta più saldamente. Ci sono le SDF da un lato, con cui gli USA agiscono in Siria, e c'è la Turchia, il cui approccio alla Russia non è richiesto, ma che sta attaccando le SDF. Sotto queste condizioni sembra che gli USA siano silenti contro l'occupazione di Afrin per i propri interessi e cerchino di rendere la Turchia un alleato leale al comando NATO. Sembra che gli USA stiano cercando di controllare la Turchia tramite dei piani bilanciati. L'aspetto più importante in questi equilibri, progetti e calcoli è che cosa il popolo di Afrin e l'SDF avrebbero fatto, mentre tutti stavano facendo i loro progetti sulla quantità di giorni in cui la città sarebbe caduta o quando le SDF sarebbero ritirate, il popolo di Afrin e l'SDF hanno deciso di resistere fino alla fine. Il popolo curdo ha deciso di non lasciare la città, pagando un prezzo alto con il desiderio di realizzare il modello di democrazia, libertà, giustizia e uguaglianza, insieme ad altri popoli, e nella lealtà al desiderio di vivere sulla propria terra liberamente, come un popolo che ha dovuto vivere sotto il dominio di altri per secoli. Nonostante gli intensi bombardamenti aerei e l'uso di ogni tipo di armi pesanti, il popolo di Afrin non ha evacuato la città e l'SDF non arretrano. Questo è un raro esempio nella storia. In queste condizioni di guerra, quello che succede solitamente è che le persone lasciano la città. Lo Stato turco ha pure preparato dei campi aspettandosi che la popolazione avrebbe lasciato la città e lo ha dichiarato pubblicamente, ma le sue aspettative non sono diventate realtà. Il limitato numero di civili che ha lasciato la città sono rifugiati che sono arrivati ad Afrin durante la battaglia di Aleppo. Invece di abbandonare la città, migliaia di persone da decine di città in Rojava, come Kamsio e Ezeke Kobane, sono andate ad Afrin per sostenere le resistenze e queste carovane continuano ancora. Mentre il popolo di Afrin ha resistito coraggiosamente contro l'occupazione, i curdi in tutto il mondo e i loro amici hanno sostenuto la resistenza. Di certo questi sviluppi hanno portato nuovi terreni ed eventi, sia nell'area politico-militare, sia in quella diplomatica. Mentre la forte resistenza del popolo di Afrin continuava, nella seconda settimana della resistenza, l'amministrazione del cantone di Afrin ha chiamato il regime siriano a compiere il suo dovere di difesa dei confini. Tuttavia il regime siriano e la Russia non hanno voluto dare una risposta a questa chiamata immediatamente. Si è visto che hanno seguito una politica di posticipo della decisione con alcuni incontri per rendere l'SDF più debole contro la Turchia e per forzarla a maggiori compromessi. È stato evidente che il compromesso che volevano non era solo prendere il controllo di Afrin, ma anche delle risorse petrolifere nella regione di Deir ez-Zor. In questo quadro hanno pure attaccato nella regione di Deir ez-Zor l'8 febbraio. Hanno ricevuto una dura risposta e sono stati respinti. Si è capito che nessuno aveva previsto che il popolo di Afrin avrebbe resistito così duramente contro l'esercito turco, che probabilmente è il più grande della NATO. Come risultato della resistenza del popolo di Afrin, il suo rimanere nella città, così come il sostegno della comunità internazionale, nei successivi giorni della resistenza, molti attori, e particolarmente il regime siriano e la Russia, hanno dovuto reinventare le loro politiche. Dopo che la Turchia ha perso sia sul livello politico-militare, sia su quello pubblico contro la resistenza di Afrin, il regime siriano ha risposto alla chiamata con il sostegno dell'Iran, suo alleato, nonostante il parziale rifiuto della Russia, e ha deciso di mandare le sue forze per la sicurezza dei confini di Afrin. Il regime siriano ha visto che se il popolo di Afrin da solo, guidato dall'SDF, riesce a resistere e contrattaccare, il regime perderebbe terreno per il dialogo e la negoziazione della ristrutturazione di una nuova Siria con l'SDF in futuro. Inoltre non sarebbe più stato possibile rivendicare l'unità della Siria e l'egemonia del regime. Hanno percepito il dovere di muoversi per non perdere questo terreno completamente. Dall'altro lato hanno realizzato che la Turchia non farà i passaggi attesi in Idlib riguardo ai jihadisti e che userà il processo di Astana per il solo proprio vantaggio. Questa situazione ha spinto il regime siriano a collaborare con SDF su Afrin. Dopo che la Turchia ha avuto colloqui con gli USA e Tillerson e ha mostrato i segni di riavvicinamento, insieme al sospetto che i jihadisti abbiano abbattuto l'aereo civile russo, sembra che la Russia si sia posizionata in modo da sostenere in maniera latente il regime siriano, ma tale da mantenere l'accordo con la Turchia e non perdere la connessione completamente. Si è visto che gli accordi tra il regime e SDF sono interamente in un quadro di sicurezza. Si è capito che trasferire il potere politico-amministrativo da Afrin al regime siriano non è nemmeno in materia di discussione e le SDF non faranno nessun compromesso per nessuna rivendicazione politica. Al contrario, hanno forzato il regime siriano a sostenere la resistenza contro l'occupazione e le minacce dei confini, compatibilmente con il progetto che suggeriscono come parte di una federazione siriana democratica. Secondo la legge della Federazione Democratica della Siria, che l'SDF propongo per una nuova Siria, la sicurezza complessiva è una responsabilità condivisa tra governo locale e centrale. Si è potuto vedere che SDF e il regime siriano hanno la priorità di muoversi insieme contro l'occupazione e valutare le questioni politico-amministrative in una discussione interna che è lasciata ai negoziati del contesto di una nuova Costituzione. Dopo questo livello, gli equilibri e la situazione sul campo cambieranno più velocemente. Di fronte alla Turchia non ci sono solo l'SDF, ma anche il governo centrale siriano. A parte le critiche e le contraddizioni contro il regime di Assad, il fatto che abbiamo adesso è che due stati membri dell'ONU si stanno fronteggiando. Quindi, a partire da stati come Germania e Francia, membri ONU hanno cominciato a chiamare la Turchia per fermare gli attacchi su Afrin e ritirarsi. La Russia sta cercando di posizionarsi come mediatore in modo da fornire una possibile conciliazione sotto il proprio controllo e per il proprio vantaggio. L'Iran cercherà di rafforzare la sua influenza con un nuovo accordo e sostenendo di più la collaborazione SDF regime per rompere l'influenza della Turchia. Gli USA sembrano in difficoltà nella nuova situazione. Si aspettavano che l'accordo tra Turchia e Russia sarebbe diventato difficile, quindi la Turchia sarebbe rivolta agli USA di nuovo. Come risultato, dopo la grande resistenza del popolo di Afrin da più di un mese, le ultime mosse diplomatiche e il regime siriano che assume un ruolo, la precedente atmosfera è persa per la Turchia. La Turchia non si ritirerà, ma cercherà di contrattare, con tutte le forze rimanendo nei villaggi e nei campi che ha occupato. Tuttavia, è ovvio che non può raggiungere nessuno degli obiettivi politico-militari che aveva pianificato all'inizio. Continuare l'occupazione non avrà nessun altro risultato che causare la morte di ancora più persone e bambini innocenti. La Turchia deve essere fermata prima che siano danneggiate altre persone, bambini e combattenti che li proteggono. Come si può vedere, ogni forza internazionale e Stato regionale ha un piano per i propri vantaggi. Tuttavia, le persone che stanno cercando di vivere liberamente in democrazia e pace sono quelle maggiormente danneggiate. Il pubblico internazionale e le istituzioni dovrebbero vedere il diritto di queste persone di vivere prima di ogni interesse politico. Intervenire più velocemente e fermare la guerra e l'occupazione. Prima di ogni altra cosa è una responsabilità umanitaria per tutti. Bene, l'articolo è finito, scusate, sono stato molto lungo, ma appunto un approfondimento sulla geopolitica che difficilmente si trova sui media, infatti Repubblica sul Medio Oriente ci parla esclusivamente dei raid su Gota, come se ci fosse appunto un mondo di serie A, un mondo di serie B. E, allora, abbiamo ancora pochi minuti, per cui cosa brevemente andiamo... Fatto partire la musica per sbaglio, scusate. No, ovviamente non che nessuno vuole sminuire quello che sta succedendo a Gota, però è chiaro che i giornali hanno esclusivamente determinato interesse. In questo caso l'interesse è ancora una volta voler far apparire il regime di Assad come l'incarnazione del male e diciamo far confluire tutta l'opinione pubblica esclusivamente verso nell'ostilità al regime siriano, mentre non una parola viene fatta delle equivalenti oscenità commesse dal regime turco. Siamo in chiusura e l'unica cosa che vorrei ricordare è che questo fine settimana che è trascorso ha visto una bella conferenza sulla repressione tenersi a Bologna. Se qualcuno volesse approfondire indipendentemente da noi quello che si è detto, i contributi che sono usciti, può consultare il blog unadecorosarepressione.noblogs.org, su cui immagino che a breve verranno pubblicati tutti i contributi che sono usciti fuori. Un'altra cosa, ci eravamo preparati anche un bell'articolo di recensione al libro che è uscito recentemente, che parla che racconta la storia della ZAD francese e del Notav nostrano, per la prima volta riuscendo a mettere accanto queste due importanti esperienze. Purtroppo non c'è tempo di leggerlo, però potete trovarlo su Carmilla Online. L'articolo si chiama Terre di Mezzo, e per chi fosse interessato comunque a affrontare una discussione su questo libro molto interessante e molto importante, può venire mercoledì sera, giusto? Esatto, mercoledì sera alle ore al tardo pomeriggio, anzi no, è la sera, scusate, è la sera alle 9. La sera alle 9 in Viale Corsico 81, dopo un aperitivo. Dopo un ricco aperitivo, quindi venite anche prima se volete stare in compagnia e passare un tardo pomeriggio piacevole. E alle 9 ci sarà appunto questa presentazione con gli autori del libro? No, sono compagni che hanno, credo, curato la traduzione del libro, perché gli autori sono francesi, ma appunto ci sono dei compagni valsusini che si sono entusiasmati appunto per questo libro, che è un ricco approfondimento, molto interessante, è sviluppato, personalmente non l'ho letto, ma ho letto appunto come è strutturato i capitoli, e secondo me è sviluppato veramente bene, perché va a guardare tanti aspetti di quelli che sono questi due movimenti di massa, territoriali e appunto di lotta. E niente, quindi sono dei curatori della traduzione e che appunto si stanno occupando di promuovere questo libro in Italia. E quindi niente, ribadiamo l'invito e ci salutiamo. E ci vediamo lunedì prossimo, salutiamo la tempesta di neve Burian, che speriamo che lasci presto l'Italia. Buona giornata a tutti, ci lasciamo con un po' di musica e con il programma successivo. Scusate, ricordiamo la pagina Facebook di Radio Wombat, radio-wombat-firenze, la mail è posta@wombat-insiberia.net e il sito, probabilmente lo sapete se ci state ascoltando, è wombat.noblogs.org. Su Twitter invece siamo Radio Wombat Fi. Buona giornata a tutti. A presto. Tanti saluti.